ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Come potete immaginare, non c'è giornale, quotidiano, mensile, rivista, sito internet, newsletter che non abbia come tema centrale la pandemia. E anche le copertine dei due principali news magazine settimanali in inglese sono dedicate a questo. Quella dell'Economist riproduce un pallottoliere che con le palline rivestite dalle bandiere dei vari paesi per far capire che la pandemia, lo abbiamo detto tante volte, ma ovviamente mano a mano che l'emergenza sanitaria si trasforma in emergenza economica e sociale, o magari finisce di essere un'emergenza economica e sociale come in Cina, si ridisegnano gli equilibri geopolitici mondiali. E da qui appunto quest'idea del pallottoliere. Mentre la copertina di Time è un disegno della Casa Bianca sopra il tetto della Casa Bianca, dai camini, dal tetto proprio della Casa Bianca escono, anziché nuvole o segnali di fumo, tanti nuvole, potremmo dire piccole nuvole rosse, che naturalmente sono il Covid. Questo perché? Perché sapete che la Casa Bianca è diventata in effetti proprio un focolaio che parte dal contagio di Donald Trump, e ancora non sappiamo esattamente da chi Donald Trump abbia contratto il virus, ma poiché lui dall'ospedale Walter Reed si è ritrasferito alla Casa Bianca, molte delle persone che erano entrate in contatto con lui o sono ancora in qualche modo in contatto con lui sono appunto parte di questo focolaio. Ma cambiamo un po' argomento, perché naturalmente c'è stato molto altro sui media in questa settimana, e in Germania vi segnalo in particolare un articolo della Neue Osnabrücker Zeitung che parla del numero dei rifugiati con permesso di soggiorno in Germania. Per la prima volta è diminuito, è la prima volta dal 2011. Lo ha riferito, dati alla mano, il ministro degli interni tedesco in un'interrogazione parlamentare chiesta dal partito di sinistra Linke. E nel 2020 appunto sono 62.000 in meno i rifugiati con status di diversa natura, e in tutto a metà 2020 quindi il totale era di 1,77 milioni in Germania. I rifugiati con permesso di soggiorno sono attualmente 1,2 milioni, mentre nel 2011 erano appena 400.000, perché naturalmente non necessariamente, anche in Germania la legislazione sull'immigrazione è molto complessa e continua a cambiare, quindi ci sono appunto, una volta riconosciuto lo status di rifugiato, seguono poi altri passaggi. Sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung invece Olaf Scholz, che è vice cancelliere, ha parlato del suo incontro con la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, e naturalmente come sapete la situazione di questa politica che aveva, possiamo dire, osato candidarsi contro il presidente della Bielorussia e che subito dopo il risultato delle elezioni, parliamo ormai di agosto, era dovuta fuggire dal suo paese, perché se fosse rimasta, e sapete che su quelle elezioni fin dalle prime ore si sono addensate le nubi dei brogli, se fosse rimasta nel suo paese sarebbe stata con ogni probabilità arrestata. E da qui appunto Olaf Scholz, che oltre a essere vice cancelliere è anche ministro delle finanze, ha riferito di questo suo colloquio, e poi la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha anche intervistato Svetlana Tikhanovskaya, che continua a chiedere, ma purtroppo l'attenzione su questa questione da parte dell'Europa e non solo sta un po' diminuendo, continua a chiedere naturalmente che ci sia un intervento della comunità internazionale e che vengano fatte nuove elezioni. Poi sempre in Germania, perché i tedeschi, devo dire, e questo si riflette anche in quello che pubblicano i giornali e in generale i media, non mollano l'osso, quindi un po' qui da noi io ho questa triste sensazione che a volte le notizie anche gravi di cronaca, ma non solo, durino lo spazio di pochi giorni, poi non si riesce né a capire quale sia l'evoluzione del fatto che sia raccontato con tanta enfasi, né appunto se c'è stata una conclusione magari di un processo o di un qualsiasi evento. In Germania invece, se soprattutto quando si tratta di scandali interni, ripeto, la stampa non molla l'osso, e quindi per esempio la Süddeutsche Zeitung, alla vigilia dell'inizio dei lavori della commissione d'inchiesta parlamentare sullo scandalo Wirecard, che qualche settimana fa era finito su tutte le prime pagine dei giornali economici e non solo, i ministeri delle finanze e della giustizia di Berlino hanno presentato un vero e proprio piano d'azione per rafforzare in futuro il controllo sui grandi gruppi economici internazionali. Ne hanno scritto sia la Süddeutsche Zeitung che alcune agenzie di stampa, perché quello che si vuole evitare è che si ripeta un altro caso Wirecard, questo colosso fintech quotato che poi si è scoperto aveva un buco in bilancio di 1,9 miliardi di euro. Naturalmente ci si è subito chiesti perché questo tutto è partito da una segnalazione della società di consulenza che avrebbe dovuto certificare i bilanci e si è rifiutata di farlo, ma come si è potuti arrivare ad accumulare quel tipo di perdite nei bilanci di una società quotata, che quindi, come tutte le società quotate, è sottoposta ai controlli. Da noi si chiama Consob, negli Stati Uniti si chiama SEC, in Germania si chiama BaFin, che è appunto l'organo di vigilanza bancaria, e vedremo appunto come continuerà. Ma sono sicura che sia la commissione d'inchiesta del Parlamento continuerà a fare la sua indagine e i giornali continueranno a darne notizia. A proposito invece di Covid, ma è un paese di cui non parliamo spesso, anche in questo caso se ne è parlato solo quando ha deciso di essere il primo paese al mondo a fare un secondo lockdown, e parliamo di Israele. Haaretz, uno dei quotidiani di Israele appunto, ha pubblicato questa notizia, e cioè ci sarebbe stata da parte del responsabile della sicurezza interna, dello Shin Bet Nadav Argaman, una violazione delle limitazioni del lockdown. Ne hanno parlato le radio pubbliche, l'ha ripreso appunto Haaretz, perché è vero che questo è un periodo di festività religiose in Israele, ma il lockdown è in vigore per tutti. A questo proposito la maggior parte dei giornali americani, in particolare quelli di New York, hanno dato conto, sapete che anche a New York sono stati imposti dei lockdown ad alcune zone della città che corrispondono a dei codici di avviamento postale, quelli che negli Stati Uniti si chiamano zip codes, in particolare di alcune zone di due dei boroughs di New York, cioè il Brooklyn e il Queens, e in particolare nel Queens, dove c'è una numerosa comunità di ebrei ortodossi, ci sono delle rivolte, perché anche per il fatto che è un periodo appunto di celebrazioni religiose, queste comunità si fanno portavoce di queste esigenze i diversi rabbini locali, queste comunità rifiutano appunto le imposizioni imposte dal sindaco della città Bill de Blasio, dal governatore dello stato Cuomo. E a proposito invece di, come dicevamo all'inizio, paesi che stanno uscendo dall'emergenza economica, tra questi c'è sicuramente la Cina. E allora Financial Times ha parlato dell'andamento della valuta cinese, lo yuan, che in questa settimana ha messo a segno il maggior rialzo da 4 anni e mezzo. È stata sicuramente anche in occasione della ripresa degli scambi dopo la vacanza, le vacanze specifiche della Cina, che sono il National Day, però c'è stata appunto anche l'accelerazione dell'economia della Cina, e anche è per questo che dico sempre che non ci occupiamo di elezioni americane per motivi così folcloristici o di interesse personale. Quello che succederà negli Stati Uniti interessa tutto il mondo, e per esempio appunto mano a mano che i sondaggi mostrano un aumento del vantaggio di Joe Biden su Donald Trump, e Donald Trump naturalmente è visto come diciamo la possibilità, la scelta meno felice per quanto riguarda i futuri rapporti tra Cina e Stati Uniti. Poi in realtà non si capisce bene come si comporterà Joe Biden, e su questo tema è stato abbastanza evasivo per ora, però il fatto che ci siano più possibilità che vinca Joe Biden ha spinto le borse. E quindi il cambio onshore dello yuan, ha scritto appunto Financial Times, alla ripresa delle quotazioni è salito dell'1,2% a 6,7091 per un dollaro, segnando il maggior progresso intraday, pensate, dal febbraio del 2016. Un'altra segnalazione che riguarda comunque lateralmente, ma le elezioni americane. Washington Post ha fatto un'inchiesta su Amy Coney Barrett, la giudice che il presidente Donald Trump vorrebbe insediare alla Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg, che è morta, è un incarico a vita, quello di giudice della Corte Suprema, e secondo il Washington Post fino a 10 anni fa faceva parte di un controverso gruppo religioso che si chiama People of Prayer. E questo che Amy Coney Barrett non abbia mai fatto mistero di essere una cattolica praticante e con dei principi potremmo dire ortodossi per quanto riguarda per esempio il tema dell'aborto, naturalmente è contrarissima. Su questa appartenenza a un gruppo religioso estremo non era mai stata chiara, quindi potrebbe essere, ma difficilmente questo avrà un peso nelle audizioni, se ci saranno, come da calendario, al Senato per confermare la nomina di Donald Trump prima delle elezioni del 3 novembre. Era purtroppo l'ultima segnalazione per oggi, come sempre avevo messo da parte troppi articoli. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.